Oh. Ho visto un video a lezione di medicina, un ingegnere dice lì che si cammina, serve un'IA forte per tenere il mondo in mano, noi regaliamo dati scrollando sul divano, dal panopticon di Bentham alla torre digitale, ora guardi un algoritmo senza volto né morale, social che ti scrutano mentre ti fai vedere, ti senti protagonista ma sei merce da vendere, benvenuto dentro l'IOPICON. Tu guardi lo schermo ma è lo schermo che guarda te, non c'è più Second Life, è la tua vita nel te. Credi un individuo, sei solo un dataset, sei profilo, sei punteggio, sei target da colpire, una curva di rischio pronta a prevedere, se vuoi uscirne davvero, alza gli occhi dal telefono, decentralizza il cuore, decentralizza il nodo, decentralizza il nodo, decentralizza il nodo, decentralizza il nodo. Internet una volta era nickname e forum lenti, non contava la tua faccia ma le idee tra sconosciuti e studenti, oggi invece il sinopticon ci tiene tutti in vetrina, il banopticon decidi resta fuori dalla fila, big data ovunque, correlazioni a pioggia, l'ombroso in radio mica che ritorna dalla tomba, ci promettono via forte, cosciente e sovrumana, ma il vero scopo è il controllo della struttura sociale umana. GDPR AI Act. Chi proteggono davvero? Il piccolo ricercatore o il gigante col server nero? Se i dati sono oro, la miniera siamo noi, ma la libertà si salva condividendo fra pari, non fra eroi. Benvenuto dentro l'IOPICON. Tu guardi lo schermo ma è lo schermo che guarda te. Non c'è più Second Life, è la tua vita nel team. Ti credi un individuo, sei solo un dataset, sei profilo, sei punteggio, sei target da colpire, ma un cuore non si riduce, righe da eseguire. Se vuoi cambiare il finale, rimetti l'umano al centro. Decentralizza il mondo partendo da qui dentro. Centralizza il mondo.